Thank you. Non esiste suono che non abbia un silenzio prima e dopo. Quella tra suono e silenzio è una relazione simbiotica. Suono e silenzio esistono solo relativamente l'uno all'altro. Le relazioni temporali possono essere immediate o molto lunghe. Ascoltare i suoni significa ascoltare i silenzi e viceversa. Non c'è silenzio assoluto a meno che non vi sia una totale assenza di vibrazioni. Silenzio significa che non possiamo sentire alcun suono. Il silenzio è lo spazio tra i suoni. Bentornati a Tutto Tranquillo. Ciao a tutti, tutti tranquilli. Abbiamo iniziato così, con una frase bomba presa da un libro. Da un libro molto bello che vi consigliamo. Sì, che poi vi scriveremo magari nelle storie su Instagram dove e intanto vi consigliamo possiamo, dove andare. Possiamo dirvelo già spoilerare. Ora. Spoilerare. No, lasciamo tutto quanto nel silenzio, nel dubbio di quale possa essere il testo. Silenzio. Il silenzio e l'ascolto, stavamo parlando di quello che si diceva sulla frase che hai letto. Cosa dici tu? Cosa dico? Dico che diventa parte fondamentale, soprattutto se si fa un certo tipo di musica, dare spazio al silenzio. Poi adesso parliamo di musica, poi ovviamente si potrebbe fare anche un discorso sulla vita, sulle relazioni e sulle dinamiche tra persone, ma restando, essendo questa una radio dedicata alla musica ambient, parliamo di musica ambient, diventa fondamentale saper ascoltare, diventa fondamentale saper ascoltare i suoni, ma diventa poi fondamentale anche dare spazio a quelli che sono i silenzi tra i suoni. Sì. Diventa, vabbè, il silenzio è sempre stata, vabbè, una anche delle chiavi musicali per molti artisti. Ci sono molti artisti che hanno usato il silenzio come componente musicale fondamentale anche nelle loro brano, opere. Anche come brano unico, tipo 4 ah, e esatto, 30, mi veniva in mente lui. Mi veniva in mente anche invece per non stare sulla musica colta, tra virgolette, sì, anche sì, sì. Hendrix. Sì, Hendrix sì, stesso sì. Diceva che i momenti più belli della musica sono i silenzi o comunque le pause, i momenti più interessanti. E se ci pensi anche quanto comunque sia importante anche da musicista o anche da ascoltatore l'ascoltare in generale. È spesso la chiave, la soluzione di una performance, di quello che può essere la resa. Tu come musicista, noi due quando suoniamo insieme spesso suoniamo ascoltandoci. Non partiamo da un preparato, una prova fatta, ma è semplicemente ascoltare quello che fa uno, quello che fa l'altro. Vedere dove sta andando uno, quindi dedicarsi più proprio all'ascolto dell'altra persona che è di fronte a quello che sta facendo, a quello che sta provando a fare, piuttosto che semplicemente fare la mia musica, fare la mia parte, fare quel momento e farla meglio in maniera, tra virgolette, io te la dico così, un po' virtuosa, essere concentrati solo su se stessi. E anche da ascoltatore la vedo come tale, cioè vedo un bel concerto è perché l'ho vissuto bene, l'ho ascoltato bene, l'ho vissuto bene. Non l'ho solo sentito, l'ho ascoltato. L'ho ascoltato. Sì, no, perché se ti fermi all'ascolto semplice diventa un po' poi un problema. L'ascolto basico o quello che potrebbe essere solamente un ascolto mero, senza essere focalizzato, perché di ascolti ce ne possono essere di due tipi, almeno pensandoci, un ascolto più attento, un ascolto generale. Se sei in un gruppo, ti è mai capitato di focalizzarti solo su una persona? Ma al di là del gruppo pensiamo anche, adesso come prima, non parlo più solo di musica, pensiamo proprio anche nelle nostre giornate, no? Noi siamo costantemente circondati da suoni, da persone, da dialoghi, da interazioni, e spesso noi possiamo focalizzarci, concentrarci su un unico suono, oppure possiamo anche riuscire a avere un ascolto globale di quello che ci sta intorno, no? Diciamo che questo poi nella musica ambient diventa una componente fondamentale, perché è una stimolazione continua di suoni che però lavorano anche, possiamo dire, un pochino dal basso, non cercano di andare a richiamare un'attenzione specifica o uno stimolo specifico. È un'unione di momenti, di sonorità, che cercano poi, sia per chi suona, ma poi anche per chi ascolta, di avere quell'attenzione globale sul suono, che porta poi anche a un'attenzione di ognuno di noi su quello che si sta ascoltando. Sì, soprattutto anche la fatica che si fa nell'ascoltare, perché comunque spesso e volentieri ascoltare non è così semplice o così immediato, anzi spesso e volentieri si fa molta fatica ad ascoltare, a mettersi lì ad ascoltare dall'inizio alla fine. Pensa anche semplicemente, forse il vero maestro in assoluto di tutto l'ascolto potrebbe essere, sì, forse sono i bambini, perché nella loro forma, il bambino nato, il bambino piccolo... Anche nel loro caos. No, nel loro caos non ne parliamo, ma preferisco prima del loro caos, il momento un po' del silenzio, quando comunque loro incominciano ad apprendere che devono ascoltare quello che gli viene detto, una forma di linguaggio, una forma... E loro devono apprendere, devono ascoltare certo. Nella maniera più profonda che possono, per poi sviluppare il loro linguaggio, il nostro linguaggio, sì, la comunicazione. L'ascolto è un momento fondamentale proprio dell'esistenza di ognuno di noi per riuscire a sviluppare il proprio linguaggio e la propria comunicazione con l'altro, quindi sta forse proprio alla base di qualsiasi tipo di interazione sociale che noi possiamo avere. E se questa cosa poi noi la vediamo all'interno della musica, all'interno del suono, forse allora è un po' come tornare all'origine, alla prima cosa che noi abbiamo imparato a fare per riuscire poi ad avere un'interazione con l'altro. Sì, la vera comunicazione è l'ascolto, iniziare a parlare con qualcuno e saperlo ascoltare, perché se non ascolto e non so quello che mi stai dicendo, hai voglia che ti rispondo con le cose corrette. Buon ascolto. Mi siedo in silenzio con la sveglia accanto. Chiudo gli occhi e apro le orecchie. È a questo punto che il sipario si alza e inizia la performance. L'ambiente circostante sembra prendere vita. Ogni suono rivela la personalità del suo creatore. Ci sono molti suoni che si fissano nelle mie orecchie, come un basso ostinato. In lontananza il ruzzio incessante dei macchinari di una fabbrica e più vicino il suono sommerso dell'acqua che gocciola in una fontana. Questo sfondo sonoro è interrotto dal motivetto penetrante di un uccellino. Una corrente d'aria attraversa all'improvviso il palco. Le pagine del mio libro le rispondono con rapidi schiocchi. Le porte all'ingresso cigolano e gemono nella stessa tonalità di un'antica sedia d'ondolo. Poi si chiudono con uno schianto. Sento le tende di una finestra aperta che strusciano sull'intonaco ruvido del muro, mentre la cordicella sincopa contro il vento. Beh, sarebbe proprio un bel esercizio se tutte le mattine provassimo a prestare attenzione così in maniera attenta, come è stato descritto nelle pagine che hai letto. Sì, questa lettura in realtà era per darvi uno stimolo domattina quando vi sveglierete. Intanto pensare un pochino che cosa fate la mattina quando svegliate e provare a vivere una mattinata diversa, provare ad ascoltare, a includere questo tra i sensi che abbiamo a disposizione e dargli un pochino più attenzione, perché forse tra tutti è il senso che alla fine curiamo un pochino di meno nel nostro quotidiano. Poi sicuramente noi siamo di Milano, non so quanti che ci ascoltano sono di Milano o comunque vivono in un ambiente inquinato, un ambiente in cui l'inquinamento acustico è abbastanza padrone. Alto, sì. Guarda, però può essere un bel esercizio, soprattutto in realtà in città dove è presente il caos, dove magari ci manca anche tanto quello che può essere il suono dell'ambiente naturale, no? Anche stare in suoni che reputiamo fastidiosi. Sì, magari un esercizio potrebbe provare a essere nel caos cittadino, trovare cercare qualche cosa di ascoltare, che ci dà della pace. Ma cercare provare a trovare anche dei suoni naturali in mezzo a quelli metallici, industriali o quelli che sono dati dall'inquinamento acustico che tutti i giorni ci sovviene. Magari si riuscirà a trovare un momento, un esercizio, avere dei riferimenti per poter fare qualche cosa per acuire maggiormente quella parte che appunto è l'ascolto. Prima appunto si parlava d'ascolto e parlando anche, tornando un attimino alle parole che avevamo iniziato prima, in cui avevamo parlato maggiormente del silenzio. Ti dicevo prima, sono stato al cinema a vedere il documentario di Cognetti e lì si parla molto del silenzio e di quello che la montagna può dare, quindi proprio il silenzio come unica forma di ascolto interiore, perché nel silenzio più assoluto della montagna l'unica persona che puoi ascoltare è il tuo disordine interiore, quello che ti può dare il tuo caos. Ma è proprio con il silenzio che magari riesci maggiormente a dedicare un momento d'ascolto profondo rispetto a quello superficiale che viene fatto così in maniera distratta. O come quello che proprio non viene fatto. Sì, che poi direi che differenza sostanziale è dire ascolto e il sentire. Il sentire certo. Lo vedo come una cosa un po' più lieve. Stare lì e ascoltare è tutt'altra faccenda, è molto più difficile. È andare un po' a cercare, è andare un po' alla ricerca. È andare un po' a cercare, sì, essere un po' dei navigatori del suono, navigatori del... Beh, ma come hai appena detto tu, in un ambiente come la montagna, dove il silenzio diventa parte fondamentale, forse l'unico compagno che uno può avere, rimane in accezione quasi disturbante, no? Questo silenzio diventa estremamente faticoso. Il silenzio montano o della montagna è... Diventa silenzio faticoso. Diventa devastante, diventano degli urli. Come in una grande città il grande caos diventa faticoso. Secondo me in entrambi gli ambienti quello che noi possiamo fare è riuscire a estrapolare un ascolto gentile, un ascolto focalizzato su delle cose che ci fanno rimanere in quella sensazione quasi di fastidio, di caos o di estremo silenzio, e riuscire ad andare in un luogo, in un posto o in un suono, che può essere anche un piccolo e minimo suono, che però ci fa sentire non più troppo nel caos. parlare poi oggi, non sentirsi nel caos qui oggi è proprio oggigiorno, mi sembra un'utopia purtroppo. Vorrei tanto che lo fosse, sì. Però come vorrei tutte tanto le cose che lo fosse. Bisogna esercitarsi nel fare le cose. Sì. Bisogna ognuno un piccolo passo. D'altronde tutto di colpo non potrà mai succedere, ma se dentro di noi proviamo a fare dei piccoli cambiamenti, delle piccole migliorie, tutto quello che potrà poi venire se ognuno può essere di noi imparasse migliore. Ad ascoltare magari sarebbe così tanto bello, sì. Però vabbè, noi su queste parole noi ascoltiamo, noi ci stiamo piccolo. No, ascoltiamo mi sembra un po' troppo, noi stiamo provando, noi ci proviamo. E ci stiamo impegnando, pensiamo che sia una cosa importante per tanto e per molto potrebbe per molti. Ma anche per molto tempo molto. Ascoltare può essere utile. Ah sì. Riuscire a stare lì ad ascoltare per molto tempo. Stavo parlando prima, ridendo e scherzando, si parlava appunto, tornando un pochettino alla musica ambient, quanto spesso le etichette di musica ambient utilizzino dei supporti fisici differenti rispetto al digitale classico, allo streaming. Quanto anche loro forse, non lo so, magari è un mio pippotto, come si dice in gergo, una mia idea fatta così, però magari è anche quella la voglia di dover star lì. Ti riferisci a supporti tipo vinili? A supporto fisico, proprio supporto fisico, sì. Molte etichette escono e decidono di stampare fisicamente piuttosto cassettine, ma che ti impediscono lo streaming, che ti impediscono di andare avanti, ti obbligano a stare lì, ti obbligano a dover ascoltare perché a un certo punto devi cambiare lato, come il vinile. E se sei da un'altra parte, se tu hai un... Intanto è un oggetto fisico con cui uno può interagire, quindi sì. Secondo me già quello è. Però non so se l'oggetto fisico poi ti aiuta nell'ascolto. No, sì. Però forse ti aiuta a sentirti un po' nel famoso qui e ora di cui parlano. Di cui parliamo spesso e non volentieri. È, non schiaccio un play e ascolto e se voglio cambio e skippo, ma inserisco una cassetta che è qualcosa che prima tocco con le mani, che ha già un senso, che mettiamo in atto. Ah, sì. E poi la lascio andare. E poi la lascio andare. La lascio andare e la devo seguire. E la devo seguire. Però la devi avere cura, devi stargli dietro. Devi avere molta cura. Sì, perché prima o poi si rovina, magari si incastra con la matita, ma qua in pochi magari la capiscono, perché io sono un po' datato e con la matita tiravo indietro i nastri che uscivano quando si incastravano. Ci arrivo. Ci arrivi? C'eri? Sì, c'ero. Non basta. E allora se ci arrivi siamo tutti contentissimi. Niente. Andiamo avanti con l'ascolto? Ascoltiamo tutti ancora tranquilli. Qualche altro pezzo? Ciao. Ciao a tutti. Thank you. Thank you.